sono fatta proprio fatta così. Fumo blu, poi vado al mare a cercarmi un po'. Dentro l'acqua ma tu mi eri accolta. Sono andata controvento, cercavo di salpare sulla barca, navigavo a stento. Circondata dalle onde, io mi arrampicavo su quegli alberi cercando sponde. Ballavo in fondo al mare, pensavo fosse più facile poi poter risalire. Ma poi ti ho vista arrivare, tu mi vieni a salvare.